Italia in controluce. Buongiorno, oggi è il 6 dicembre, Italia in controluce, due edizioni 6.30, 13.30. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Da oggi all'11 dicembre Radio 24 dedica alcune parti della sua programmazione alla rinascita della Calabria, quella che si ribella alla 'Ndrangheta. Oggi a Italia in controluce parla Pippo Callipo, imprenditore neocommissario dell'Assoindustria di Reggio Calabria. Proprietario della Callipo Group, gruppo societario formato da 6 aziende, rappresenta la quarta generazione dei Callipo, che dal 1913 si sono succeduti alla guida della Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A., che si occupa da più di 90 anni della produzione e commercializzazione di tonno e altri prodotti ittici. È stato presidente della Confindustria calabrese dal 2001 al 2006. Sul finire del mandato denunciò pubblicamente i racket mafiosi inviando una lettera al Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, richiedendo l'intervento dell'esercito in Calabria. Denuncia anche il pericolo della mafia con la penna, cioè dei colletti bianchi, dei politici che bloccano lo sviluppo della Calabria e tengono sotto ricatto gran parte della società, suggerendo controlli severi a chi chiede contributi pubblici. Il 1 giugno del 2005, a riconoscimento del suo impegno imprenditoriale e per essersi distinto nel suo settore, con importanti ricadute nel sociale, viene nominato dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, Cavaliere del Lavoro. Pippo Callipo è stato candidato per la presidenza della Regione Calabria alle elezioni regionali 2010 con l'appoggio di più di 80 associazioni, espressione della società civile, dell'Italia dei Valori e della lista Pannella Bonino, ottenendo il 10% grazie agli oltre 100.000 voti ricevuti. Pippo Callipo, è nata l'Alba calabrese? Sì, è nata l'Alba da un po' di tempo, da un anno sicuramente che è nata, cioè, sta spuntando quest'Alba, intendendo per questo la reazione della società civile, che fino a tempo fa era una cosa statica, un subire. Oggi invece vediamo che c'è una reazione in tutti i settori, anche se ancora tiepida, però è già una cosa che si sta, è partita anche forte dalla riunione che c'è stata a Reggio Calabria sul non 'Ndrangheta, e da lì si è vista già questa partecipazione delle associazioni e della società civile. Chi sono i soggetti di questa nuova rinascita calabrese? Sono i calabresi, tutta quella gente per bene che in questi anni, soprattutto gli 10-15 anni, si è vista mortificata, si vede i figli in casa senza lavoro, e quindi sono loro che ormai forse sono arrivati veramente al fondo del barile, e quindi non resta che una reazione per dire: vogliamo anche noi una Calabria diversa, vogliamo una Calabria dove si parla di sviluppo e non solamente di 'Ndrangheta o di altro tipo di mafia. È una vera rivoluzione quella che si sta facendo in Calabria, secondo lei? Ma secondo me sì, guardi, io nei primi 3 mesi in campagna elettorale parlavo proprio di rivoluzione, il termine più frequente usato da me è stata rivoluzione, nel senso che ovviamente rivoluzione pacifica, civile, ma nel senso che rivoluzione vuol dire un cambiamento più rapido, più repentino, e non fra 20 anni, fra 30 anni, fra 40 anni, quindi secondo me la rivoluzione ci vuole, si può fare e si possono ottenere sicuramente dei risultati, perché la gente per bene in Calabria e nella provincia di Reggio Calabria, dove adesso io mi accingerò a fare, diciamo, questa ricostruzione dell'industria di Reggio Calabria, diciamo, è pieno di gente per bene, solo che sono ognuno per conto suo, nell'individualismo proprio vero della parola, proprio per una questione nostra naturale forse, e quindi non otteniamo dei risultati. Oggi comincia ad esserci un'aggregazione, la gente viene fuori, la gente ne parla nelle trasmissioni televisive, ma mi riferisco soprattutto alla società civile, non considero proprio la classe politica, che sarebbe completamente da abolire completamente. Ma questa rivoluzione investe tutta la Calabria secondo lei, o Reggio Calabria resta come una sorta di punta più avanzata? Reggio Calabria è una di quelle province che secondo me ha una reazione un pochino, perché era in una condizione peggiore rispetto alle altre province e quindi avrà una reazione maggiore, ma una reazione maggiore sarà un'onda lunga che colpirà dall'Aspromonte al Pollino, ovviamente in senso positivo e benefico. Che cosa è mancata dal punto di vista della funzione della politica in Calabria? L'amore per la Calabria. Secondo me i politici non hanno assolutamente voluto bene alla Calabria, i calabresi hanno voluto bene solamente a se stessi, a difendersi la poltrona. E lo vediamo perché abbiamo da 30 anni, forse anche 40, ma abbiamo dall'istituzione della regione sempre gli stessi personaggi che non cedono di un millimetro, che fanno delle battaglie all'interno dei loro partiti, modificando statuto per essere rieletti, per poter partecipare alle competizioni elettorali, però è gente che per la Calabria non ha fatto niente, tanto è vero che una regione come la Calabria, che ha tantissime risorse naturali, non vengono utilizzati a beneficio dei cittadini e dell'economia calabrese. Ecco, ma questa rivoluzione che lei ci sta raccontando della società civile, non pensa potrà anche in qualche modo investire la politica o il modo di far politica in Calabria? Ma guardi, sicuramente sì, perché altrimenti non combiniamo niente. La società civile deve condizionare questa gente che o incomincia a ragionare in un altro modo, nel vero senso della parola politica, cioè interessarsi degli affari del territorio e di chi ci vive sopra, oppure dovrà lasciare, perché mi auguro che non venga più votata, che non venga più considerata. Questo parliamo di destra e di sinistra, assolutamente non è una questione. Qui c'è stato un adeguamento. Io da anni che denuncio sui giornali che non c'è opposizione. Quando si va in consiglio regionale, opposizione e maggioranza sono sulla stessa linea d'onda per difendere i propri interessi e la propria casta. Questo è stato. È mancato gente che si interessasse ai problemi calabresi, che sono quelli di 10 anni fa, di 15 anni fa, di 20 anni fa. Calipo, la scelta di Confindustria Sicilia vi ha aiutati? Io dico che se il direttivo o il presidente di un'associazione datoriale, non solo degli industriali, venisse a conoscenza per una confidenza o altro che c'è un associato che paga il pizzo, secondo me non deve cacciarlo dall'associazione, gli deve stare vicino, consigliarlo di andare a parlare in questura, consigliarlo a parlare col comandante dei carabinieri, cioè adoperarsi perché questa persona abbia coraggio a vedersi vicino, diciamo, altri imprenditori, altri colleghi che insieme a lui lo vanno a supportare. No, lo cacciamo e lo buttiamo in mano all'andrangheta, in braccio all'andrangheta, non mi pare una cosa civile, una cosa di fatta bene, una cosa che socialmente può dare dei risultati. Sul piano della lotta all'andrangheta e dell'affermazione dei principi di legalità, lei da dove parte per ricostruire Confindustria in Calabria? Io parto da Reggio Calabria perché sono stato nominato dai vertici nazionali, diciamo impropriamente commissario, ma coordinatore nella industria di Reggio. Da dove parto? Parto dal leggermi lo statuto, da rileggerlo, da leggermi il codice etico e l'ho riletto e cercare di applicarlo in modo proprio asettico, in modo senza verso chi, verso come, cioè dovremmo dare un esempio. Io credo che da Reggio Calabria dovrebbe partire questo esempio, che poi dovrebbe essere adottato da tutte le altre confindustrie provinciali e dare un esempio alle altre categorie. Ecco, questo è il mio fine, diciamo il mio scopo per di lavoro per Confindustria Reggio Calabria. Era la seconda edizione di Italia in Controluce e vi ricordo il mio blog Daniele Biacchesi, Italia in Controluce, su radio24.it. Radio 24 Italia in Controluce, invece il gruppo su Facebook, abbiamo anche quello su Twitter, in Controluce, tutti i gruppi che stanno andando molto bene, pure la vecchia mail controluce@radio24.it. La mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.